Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? C'ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti ancora a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che chi ci segue lo sa, ama indagare e mettere un po' il naso nei vari luoghi dei fumetti in giro per l'Italia, da Barcellona, Pozzo di Gotto del Messinese con Fumetto Factory, fino a Cremona con l'associazione culturale Andrea Pazienza, per venire a Pordenone col PAF e, se volete, per finire con la UOL, il grande museo dei fumetti milanese. Oggi invece andiamo nel centro Italia, andiamo a Perugia, laddove c'è la Biblioteca delle Nuvole, forse la biblioteca più fornita di fumetti in Italia, e qui con Morena Moretti incontriamo Claudio Ferracci, che è un po' l'anima, il responsabile di questo centro, nonché il fondatore, e da lui sentiamo come funziona una biblioteca di fumetti subito dopo lo stacco musicale. La Biblioteca delle Nuvole di Perugia è probabilmente la più grande biblioteca italiana di fumetti e di illustrazioni. Con noi c'è Claudio Ferracci. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Claudio, tu sei un fondatore e un animatore di questa biblioteca, quindi ce ne puoi raccontare la storia? Sì, vorrei precisare che non sappiamo se quale sia la biblioteca più grande d'Italia in questo senso, perché noi abbiamo altre realtà che, pur non essendo biblioteche comunali come la nostra, sono comunque biblioteche gestite da associazioni. Quando abbiamo aperto la nostra biblioteca esisteva da molti anni la biblioteca del Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona, che è grande quanto la nostra sicuramente, e è partita anche 14 anni fa di noi, quindi sicuramente una realtà molto importante. Noi andammo a visitarla per vedere come funzionava, per creare questa qui. Che è nata nel 2002, mi sembra. Nel 2002, esatto. Nel 2002, perché noi avevamo creato un'associazione culturale per realizzare un festival, che è un festival di fumetto con mostre, esposizioni e presentazioni, che poi era defunto nel 2000 per mancanza di fondi, l'associazione non aveva più ragione di essere e ci è venuta questa idea di proporre al comune di fare questa biblioteca. Una grande idea è stata. Io so che tu hai donato una collezione proprio per aprire la biblioteca. Il problema vero è che per aprire una biblioteca bisogna avere i libri, soprattutto nel nostro caso i fumetti. Io ho una buona collezione e sono stato il primo donatore di questa biblioteca, poi se ne sono aggiunti molti altri, fino ad aggiungersene continuamente. Sì, infatti quando ti ho chiamato l'ultima volta stavi aspettando una collezione da Roma. Le tenete come fondi o le distribuite all'interno della biblioteca con altri criteri? Noi abbiamo problemi di spazio, perché abbiamo tantissimo materiale, e problemi anche per il fatto che la nostra biblioteca a scaffale aperto, il pubblico, gli utenti entrano e circolano da soli all'interno della biblioteca e possono curiosare, scoprire cose che non conoscevano. Per questo è molto importante per noi dividere i materiali per zone, diciamo, tematiche. In questo modo gli utenti sono facilitati nella ricerca. Se noi li dividessimo in base a chi ce la donate, un utente troverebbe molto difficile trovare il suo interesse senza sapere esattamente dove sono. Quindi purtroppo siamo costretti a smembrare i fondi in qualche modo. Poi alcune cose più preziose le teniamo su delle scatole con la scritta del donatore, naturalmente, però la maggior parte del materiale siamo costretti a mescolarlo col materiale già esistente in qualche modo. Per quello che riguarda i giornalini illustrati e i fumetti, diciamo quelli antichi, diciamo inizio secolo, che sicuramente ne avrete, come li gestite? Anche questi sono accessibili liberamente o avete una parte, diciamo, più archivistica? Allora, abbiamo una piccola parte archivistica, perché io ho donato una collezione, ma non ero così ricco che avere una collezione così preziosa. Infatti tendo sempre a sottolineare che la nostra è una biblioteca e non è un museo, e da questo punto di vista noi abbiamo preferito dotarci negli anni di buone ristampe di materiali, per esempio degli anni 20-30, piuttosto che di giornali originali che vanno in pezzi a toccarli e non possiamo farli utilizzare dai nostri utenti. Quindi da questo punto di vista noi non abbiamo moltissimo materiale di grande valore storico documentario. Diciamo che abbiamo tutto quello, tutto no, ma insomma gran parte di quello che è uscito dal dopoguerra in poi, questo sì. Però per quanto riguarda l'anteguerra, naturalmente sarebbe più un lavoro museale. Ovviamente stiamo cercando di avere comunque una campionatura significativa per poter ricostruire la storia del fumetto. Per esempio, il Corriere dei Piccoli, che è stato il primo giornale fumetto italiano, è uscito nel 1908, è durato una novantina d'anni, 52 numeri d'anno, averli tutti sarebbe bellissimo, ma adesso il nostro obiettivo per il momento sarebbe avere qualche numero di ogni anno, in modo da far vedere l'evoluzione anche grafico editoriale e dei personaggi. Di tutti sarebbe bellissimo, ma è un progetto miliardario per una biblioteca fatta da volontari e senza risorse. Voi fate attività didattica, intuisco, perché chiaramente questa possibilità di avere dei giornali illustrati anno per anno per poter mostrare l'evoluzione significa che vi rivolgete a un pubblico che comunque fa ricerca. Sì, noi abbiamo un rapporto molto soddisfacente con le università locali e poi stiamo cominciando a catalogare soprattutto la parte saggistica. In questo modo riusciamo col prestito interbibliotecario a mandare i libri di saggistica per chi fa ricerche, tesi di laurea eccetera in tutta Italia attraverso il circuito delle biblioteche comunali italiane. Che sarebbe il circuito quello dell'OPAC, il vostro? Sì, esatto. Esatto. Esatto. Claudio Ferracci, Biblioteca delle Nuvole di Perugia. Qualche, diciamo, chicca che ritenete di avere in questa biblioteca? Qualche pezzo particolare, magari, a cui siete particolarmente legati o che ha una storia particolare? Beh, per esempio, noi abbiamo avuto in donazione dalla famiglia Calisi, cui personaggio importante fu Romano Calisi, che fu uno dei fondatori di Lucca Comics. Era un pedagogista dell'Università di Roma che si interessava moltissimo negli anni 60 molto prima di quello che è stato poi il riconoscimento culturale del fumetto, si interessava moltissimo dell'utilizzo del fumetto a fini pedagogici e didattici, e ha scritto cose molto importanti su questo, e la famiglia Calisi ci ha regalato un libro molto bello, che è un manuale di anatomia di Barn Hogarth, che era il grandissimo disegnatore, più importante disegnatore di Tarzan. Questo libro ha una dedica autografa di Barn Hogarth, dedicata agli amici italiani, è un pezzo molto raro, soprattutto per questa dedica, diciamo così. Quello veramente è una piccola chicca da museo. Però abbiamo molte cose interessanti, per esempio la settimana scorsa uno dei nostri sostenitori, che ogni tanto ci porta dei fumetti che ritrova, ci ha portato per esempio un Topolino giornale del 42, che è un Topolino uscito in formato giornale come quotidiani fino al 49, naturalmente ne abbiamo perso la memoria, sono passati tanti anni, però la caratteristica di questo giornale del 42 è che al di là della testata Topolino, dentro non ci sono storie di Topolino, perché nel 42 c'era la guerra, non arrivavano più le storie americane di Topolino, che erano già state limitate fortemente anche prima della guerra dal regime fascista. Quindi è un albo di Topolino senza Topolino. All'interno ci sono le avventure di Tuffolino, che era un bambino che somigliava un po' a Topolino, che era, diciamo, stato una specie di Topolino autarchico. È un pezzo molto interessante da questo punto di vista. Ti chiedo ancora questo, come gestite l'attualità? Nel senso, c'è un'uscita quotidiana quasi di graphic novel, graphic journalism cartonati. Voi avete la possibilità di acquisto, vi vengono donati? E come vi relazionate appunto con questa editoria così vivace in questo momento? È una bella domanda. Il Comune ci ha concesso di gestire questa biblioteca con il nostro lavoro volontario, ma non ha mai destinato risorse all'acquisto di fumetti, perché il Comune di Perugia ha altre 6 biblioteche da governare in qualche modo, e quindi le risorse, soprattutto negli ultimi 15 anni, le risorse della pubblica amministrazione sono molto crollate. Da questo punto di vista è stato la salvezza negli ultimi anni il decreto del ministro Franceschini, che ha finanziato acquisti per le biblioteche senza curarsi del fatto, questo bando per questi finanziamenti, il fatto che queste biblioteche fossero biblioteche di libri o di fumetti o d'altro, quindi senza fare, diciamo, distinzioni di questo tipo, ma più che altro dando maggiori finanziamenti alle biblioteche che hanno numericamente più pezzi. E noi, che abbiamo oltre 70.000 fumetti, siamo stati molto fortunati da questo punto di vista. Quindi negli ultimi 3 anni, con questo decreto Franceschini, abbiamo recuperato un po' di ritardo negli acquisti, soprattutto delle graphic novel, che sono diventate una produzione cospicua da libreria e anche costosa in qualche modo. In genere i fumetti, io e altri amici, continuiamo a comprarli come prima, li leggiamo e poi li doniamo alla biblioteca. In qualche modo dei collezionisti, ma un po' sui generis, diciamo così. Boom boom, blum blum, brrrr, boing! You stupid kite, get down out of that tree! Kite kite, brrrr, chop chop chop, glam glam, clack clack clack clack clack, chomp chomp, crunch crunk crack crackle, shur. Go! My gosh! Da-ling, da-ding. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Frieden, I've got naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair? Good grief. Pow, pop. Popora, popora. Pow. Psh. Pop, pop. Don, don, don. She's got a ticket to ride. She's got the weather tomorrow. We must be glady. Tom. Knock, knock. Oh, smack. Grunt. Snuff, glab. Zroom, crunch. Rumble. Bam, swagger, to scrag, and a scratch. Drum, clash. Boing, boing, boing, boing, boing. For moo, bang, slam, slap, smash, black, snap, smack, door, splash, black, tick, tick, spring, stomp. Stomp. Stomp. Ugh. Thud. Stomp. Stomp. Stomp. Zvoom. Swash. Sweep. Tuck. Tweet, tweet, tweet. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Twing. Non c'è dubbio che in Italia c'è un'editoria per ragazzi di altissimo livello dedicata all'età delle scuole elementari che a quelle delle scuole medie inferiori. Però vediamo che mentre elementari c'è un grande impatto di questa forza educativa, successivamente sembra scemarsi, sembra raffreddarsi, i ragazzi molto spesso rimangono soli, in una grande difficoltà nelle relazioni sociali. Perché questa incapacità di incidere più di tanto dell'editoria in questa fascia d'età e cosa si può fare? L'ha chiesto Simona Sagone di Yucali per noi a due rappresentanti di questo mondo dell'editoria per ragazzi. Sofia Gallo, nonostante l'impegno dell'editoria verso la fascia dei ragazzi e delle ragazze e dei giovani adulti, la fascia d'età che legge di più è sempre quella della primaria. Poi si ha una leggera flessione età delle medie e un ulteriore crollo per le superiori. Perché secondo te questo avviene e come si contrasta? Dunque, avviene sicuramente così perché a un certo punto ci sono poi interessi che sfociano su altri campi. Più va avanti l'età, più diciamo tutta la parte del video, del digitale, del social prende un sopravvento a volte sulla concentrazione della lettura. Si combatte ritornando ai valori della lettura, offrendo dei prodotti che possano accattivare la loro attenzione, tipo il tentativo di Mistero sul Lago. C'è un romanzo, diciamo trendy, perché parla di situazioni che sono concrete, loro si possono identificare in queste problematiche, eccetera, ma allo stesso tempo cerca di offrire un prodotto, tra virgolette, letterario, cioè un prodotto che gli conduca anche a leggere e quindi a immaginare, andare anche un po' nel romanticismo, nella letterarietà della scrittura, perché altrimenti si banalizza tutto, allora tanto vale fare una serie Netflix, ne fanno di bellissime e bom, finito lì. Guglia Risari, nonostante l'impegno dell'editoria verso la fascia dei ragazzi e ragazze, i giovani adulti e adulte, la fascia d'età che legge di più è sempre quella della primaria, poi si ha una leggera flessione nella fascia delle medie e cala ancora alle superiori. Perché questo avviene secondo te e come si contrasta? Avviene probabilmente perché si ha un po' paura, si comincia a avere un po' paura di questi individui e individue che crescono, non si sa più cosa dire, non si sa cosa offrire come modello di confronto e allora ci si tira indietro. In realtà sarebbe proprio il momento in cui questi ragazzi e queste ragazze hanno più bisogno di essere supportati, di avere un confronto diretto e indiretto con la letteratura, no? Che può dare un sollievo a tante pulsioni, a tante situazioni terribili. Ci vorrebbe un po' più di coraggio. Coraggio, coraggio, coraggio.